Dal 7 al 9 giugno a Cosenza, nell'area delle ex officine delle ferrovie della Calabria, sedicesima edizione dell'Hack Meeting, l'incontro annuale delle controculture digitali e non solo. 3 giorni di seminari, condivisioni, socialità, per chi vuole porsi in maniera critica rispetto alle tecnologie e non rinuncia a comprenderle ed autogestirle. Hack Meeting, un incontro apotropaico per allontanare la iattura del controllo.